Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Luglio, stagione per tante cose, e tra queste cose ci sono anche i saldi estivi. È questo il primo argomento della settimana che trattiamo con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ben trovato al presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, ne parliamo periodicamente, appunto a gennaio e a luglio. Sabato 6 è giorno di saldi. Che aria tira quest'anno? Certo Mirko, ne parliamo periodicamente e come ogni anno quando iniziano i saldi anche noi lanciamo i consueti consigli e anche la nuova campagna che l'Adico per il secondo anno propone, visto il grande successo dell'anno scorso, denominata Fotografa il tuo acquisto. Prima di entrare nel merito appunto della campagna, come hai detto te, si respira un'aria di forte preoccupazione soprattutto anche nei commercianti che complice la crisi ma anche il maltempo hanno visto sostanzialmente la merce estiva ancora rimanere in negozio e quindi vedere le vendite sicuramente crollare rispetto agli anni precedenti. Pensare che tra qualche giorno si potrà parlare di saldi e trovarsi ancora a una temperatura che assomiglia più a una temperatura primaverile anziché estiva, fai capire come c'è una grossa preoccupazione da parte di tutti, soprattutto delle famiglie che comunque non hanno più soldi e da qua a fine anno saranno attese a tante scadenze fiscali. Delle scadenze fiscali avremo modo di parlare perché ci saranno, speriamo di no, ma degli ingorghi a quanto pare, ma insomma concentriamoci su questi saldi. Voi avete anche fatto un'indagine appunto tra i consumatori. Sì, è un'indagine che anche qui ogni anno riproponiamo per vedere e capire che grado di fregature a volte capitano che i consumatori subiscono in occasione dei saldi, perché poi vediamo che sempre più frequentemente uno dei problemi più comuni è quello di vedersi il prezzo scontato non in termini reali, vero e proprio come dovrebbe essere esposto nel cartellino, ovvero magari prima di saldo lo maggiorano del 20% per poi scontarlo del 40%, quindi eludere un po' quello che è margine del guadagno e soprattutto anche rispetto a quello che è il rischio di vedersi rifilare degli avanti di magazzino o di vecchia o di qualche anno fa che magari inducono il consumatore a non fare questi buoni affari come magari credono di poter fare. E allora voi, come dicevi, riproponete anche quest'anno questa campagna che proprio nei giorni che precedono l'avvio dei saldi, nei giorni fino a questo venerdì, una campagna che propone appunto di fotografare, come dice il nome. Sì, una campagna che è sorta l'anno scorso come primo anno e che ha ricevuto grandissimi successi, un grandissimo successo e soprattutto è piaciuta molto ai consumatori, abbiamo ricevuto molte mail anche di ringraziamento perché sostanzialmente è una campagna denominata Fotografa il tuo acquisto, cioè è un invito che noi facciamo a tutti i consumatori che decidono di voler approfittare dei saldi per fare qualche buon affare, di andare ad approfittare di questi giorni fino a sabato per fotografare l'articolo e il prezzo reale che questo articolo ha oggi esposto. Dopodiché aspettare i saldi per poter verificare che l'articolo comunque sia di moda e che lo sconto proposto sia reale rispetto a quello che qualche tempo prima era un prezzo di vendita. L'anno scorso avete avuto che riscontri avete avuto dal 2012 per questa iniziativa? L'anno scorso abbiamo avuto grandissimo successo perché sostanzialmente è stata una grande opera di prevenzione e soprattutto il consumatore si è tutelato nei propri riguardi e nei confronti del commerciante, soprattutto perché abbiamo ricevuto anche delle segnalazioni proprio curiose, come ha dimostrato l'indagine che abbiamo fatto, dove sostanzialmente 7 vendite su 10 riferiscono comunque di aver trovato sempre dei prodotti stagionali di anni passati oppure di aver avuto dei prezzi che alla vigilia dei saldi sono stati gonfiati per poi essere scontati in occasione dell'appuntamento dei saldi. Per cui tante fotografie, tante segnalazioni che alla fine comunque al di là di quelle che sono le curiosità e gli inviti che poi noi facciamo sempre, che è quello di rivolgersi all'Adico quando si individuano delle anomalie o dei vigili urbani della propria città, quando c'è da fare delle denunce o delle osservazioni, come di rivolgere. ma che comunque ha accolto grande entusiasmo, soprattutto nel nostro ambiente, perché siamo stati certi con questa idea di aver aiutato delle persone a fare veramente dei buoni affari. E ricordiamo allora con l'occasione anche gli altri consigli, le raccomandazioni, insomma quelle principali che sono un po' sempre le stesse, no? Come quando si dice d'estate bisogna bere tanta acqua quando fa caldo, per i saldi cosa bisogna fare sempre? Sì, sono sempre le stesse, valgono sia per i prodotti estivi che i prodotti invernali, sostanzialmente si tratta di diffidare degli sconti superiori al 60%, confrontare le offerte, verificare che i prodotti non siano avanzi appunto delle stagioni passate, verificare soprattutto che il prodotto che viene offerto dentro il negozio sia coincidente con quello in vetrina, perché molte volte, anche questa è un'ottima, una segnalazione che abbiamo ricevuto molto frequentemente l'anno scorso, i negozianti tendono a mettere in saldo dei prodotti in vetrina, poi quando entri in negozio non lo trovi e ti propongono altri prodotti, quindi con il dubbio che sia anche di moda o appunto non un avanzo di stagione di qualche anno fa. Poi soprattutto ricordarsi che vale sempre il principio della garanzia di 2 anni se il prodotto non è conforme, e anche nel periodo dei saldi si può pagare con il bancomat o con la carta di credito, e ricordiamo che comunque al commerciante non è vietato poter esporre anche i prodotti degli anni passati rispetto a quello che è l'anno in corso, quindi l'importante è non confondere quelli che sono i diritti rispetto a quelli che sono le cose che ci troviamo in occasione dei saldi. E allora per ulteriori segnalazioni ci sentiremo nei prossimi giorni, quando i saldi appunto saranno iniziati, vedremo anche quale sarà l'andamento in riferimento soprattutto alla crisi economica e alla mancanza di soldi. Grazie Carlo, buona giornata. Grazie a te Mirko e un saluto a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.